La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Con l'articolo 29 si apre la parte dedicata alla famiglia. Potrà sembrare strano, ma forse è stata la parte più discussa dell'intera Costituzione, perché c'era una profonda difficoltà interna allo stesso Partito Comunista. Gli schieramenti in campo erano chiari in Assemblea Costituente. La famiglia era una famiglia chiaramente patriarcale, fondata non certo sull'eguaglianza fra uomo e donna, e dove il divorzio era inesistente. Però che cosa successe in Assemblea Costituente? Che la parte cattolica voleva sì sancire l'eguaglianza dei coniugi, ma voleva anche sancire l'indissolubilità del matrimonio. Emendamento La Pira presentato su questo punto. La sinistra era in piena contraddizione interna, perché da un lato era a favore del divorzio e quindi della scindibilità del matrimonio, anche per questioni personali, perché ricordiamo che alcuni dei leader dell'epoca comunisti, come Togliatti, come Terracini, avevano anche problemi personali di divorzio. Tuttavia c'era consapevolezza che gran parte dell'elettorato di campagna, che era un elettorato anche comunista, era invece tradizionalmente contrario al divorzio, perché all'epoca era così. C'è questo modo di dire che mi piace ricordare, che tante donne del sud dicevano all'epoca: basta che mio marito torna a dormire a casa. Quindi formalmente il matrimonio andava salvaguardato. Ecco allora che viene scelta questa formula, chiaramente compromissoria, che la Repubblica riconosce quindi i diritti della famiglia che già esistono, che preesistono, perché la famiglia preesiste allo Stato, come società naturale, società di natura. Qui c'è un altro punto interessante, una curiosità, perché l'articolo 29 non parla chiaramente di un matrimonio fra uomo e donna. Altri articoli di altre costituzioni riconoscono invece il matrimonio fra uomo e donna. E quindi su questa, potremmo dire, neutralità, ambiguità, si sono fondati anche tanti movimenti per ritenere che il Costituente fosse stato così presbite da pensare che il matrimonio poteva essere anche fra soggetti dello stesso sesso. In verità, in Assemblea Costituente di questo non si parlò e quindi non credo che il Costituente avesse visto così lontano, però questo riferimento neutro alla famiglia e non a uomo e donna consente certo aperture maggiori, come del resto la legislazione degli ultimi anni è arrivata a riconoscere. Altro punto importante, l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sancita dal secondo comma. Dobbiamo pensare che noi siamo in un'epoca, nel 1946, quando il trattamento del marito e della moglie era per legge totalmente differenziato. Per la moglie il semplice adulterio era un reato, per il marito invece il reato era il concubinato. Quindi questo ci fa capire che è un'affermazione importantissima aver posto in Costituzione che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Per cui un articolo sicuramente aperto al futuro, ma anche un articolo di grande compromesso. Una curiosità, l'articolo 29 è il primo articolo su cui nell'Assemblea Costituente, aprile 1947, viene chiesto il voto segreto, proprio perché soprattutto il Partito Comunista aveva difficoltà a far emergere i suoi dissidi interni sul tema della famiglia.